arriva alle donnette che sono sempre perfette, si attaccano ad un uomo come fossero cagnette, non hanno un'intenzione, non hanno un interesse, sono spesse volentieri bulimiche e represse. Ma che liberazione, ma che rivoluzione, ballerine di fila che aspetta l'audizione, il sesso imprigionato dal libero mercato, ogni corpo nata che via via misurare. È primavera. Ma insomma, ragazzette, dammi un po' da fascia, avemo culo e tette, e testa per pensare. Per voler, aspetta, vedi la pezza, ecco qua. Testa per pensare, scusate, che pure lì difetti sono da valorizzare, altro che quelle della pubblicità. Ci piace far l'amore, è puro dei magnà, altro che chiesa, marito e soffrirà. Volemo una vita di curiosità, e questa è la strada. Aloha, finalmente iniziamo Femministenzia a Radio Default. Abbiamo ospite Kaye Kayahera, che dal 2005 collabora con diversi collettivi lesbico-femministi di Quito, con i quali ha realizzato spettacoli, monologhi e azioni in spazi pubblici. In collaborazione con collettivi di diversi schieramenti di lotta, ha sostenuto le piattaforme di azione diretta Action Arte, Intervenciones Trans Kayaheras e Articulazione Sporadica. Dal 2009 si inserisce nel mondo dell'hip hop con un rap transfemminista. Che cosa, quali sono i motivi che ti hanno portato a definirti transfemminista e queer? Pues para mí la posibilidad del feminismo de criticar el patriarcado lo mezclo con la realidad de Latinoamérica, una realidad de la colonialidad, y por eso también me aporto con la posibilidad de la diversidad sexual, entonces por eso hablo del transfeminismo. Quindi prima di tutto una critica della relazione del femminismo e una critica quindi a quello che sono il patriarcato, quindi questo è il mio punto di partenza, che poi io mescolo anche con la critica alla colonizzazione, quindi un tentativo quindi di decolonizzazione. E quindi in questo senso mi rifaccio al transfemminismo anche per quanto riguarda per esempio le lotte per la diversità sessuale. Ok, hai scelto di partecipare a realtà politiche diverse. Quali sono i principi base che devono avere queste realtà per rappresentarti e collaborare con te? In generale, se tengo la possibilità di emitire il messaggio, io tomo in cuenta se posso emitire il messaggio, per me è importante. Cuando son espacios colectivos, feministas, diversidad sexual, resistencia ecologista, anticapitalista, yo también puedo colaborar directamente sin ninguna negociación. Quindi principalmente, per me la cosa più importante è la possibilità di trasmettere un messaggio che sia politico, e quando c'è anche la possibilità di collaborare con realtà femministe, anticapitaliste, ecologiste, c'è appunto un processo appunto di comunicazione per appunto creare dei processi appunto di resistenza e di denuncia di alcune situazioni che succedono in Ecuador. Y por otro lado, cuando en procesos más colectivos de creación de aportes para una lucha concreta, para una problemática concreta, hacemos trabajo colectivo para planificar una acción y ahí pues trabajamos desde la horizontalidad, sin jerarquías, con respeto a las diversidades sexuales. Entonces, en ese sentido, yo he generado plataformas con otros colectivos para hacer denuncia en el espacio público. Quindi per quanto riguarda il lavoro con i collettivi, si cerca appunto di creare dei processi che siano però più orizzontali, quindi di partecipazione. In particolare io ho collaborato con altri collettivi creando delle piattaforme anche momentanee per delle denunce proprio specifiche. Fai parte di un collettivo in particolare o rimani sulle piattaforme, sul coordinamento? Sí, bueno, yo en el Ecuador actualmente es como complicado la posibilidad de accionar como movimientos sociales, ¿no? Hay una represión súper fuerte y ante eso varias personas hemos generado plataformas que articulan varios colectivos, entonces por eso se llama articulación esporádica. In questo momento in Ecuador è complicato per i movimenti sociali agire, vi è molta repressione da parte dello Stato, quindi è più facile creare delle piattaforme che siano momentanee e che permettono così un'articolazione di varie realtà, di vari collettivi, e in questo senso io ho partecipato alla creazione, ho creato l'articolazione sporadica. Ti esprimi attraverso un attivismo artistico, credi che la gente presti più attenzione agli argomenti seri se presentati sotto forma d'arte? Claro que me parece más amigable el uso del arte, del arte escénico y de la música, ayuda para poder recibir, que la gente pueda recibir el mensaje, entonces lo uso como una herramienta, ¿no?, al trabajo artístico. Sicuramente l'utilizzo dell'arte scenica, della musica, del teatro sono degli strumenti che permettono un avvicinamento, diciamo, delle persone a certi temi, e quindi in questo senso per me è fondamentale utilizzare l'arte come per trasmettere dei messaggi politici. Y también pienso que el arte ha sido fetichizado, ¿no?, usado de mala manera, mercantilizado, comercializado, y también en ese sentido yo trato de permear, de involucrar el arte hacia la recuperación de lo político, de la posibilidad política que genera el arte. A maggior ragione che l'arte è stata utilizzata anche come, diciamo, è stata mercantilizzata, per me quindi è molto, ancora più importante cercare di recuperare appunto il significato politico che può trasmettere l'arte. Prima di mandare una traccia del tuo hip hop, mi chiedevo perché il genere hip hop, perché hai scelto l'hip hop? Bueno, yo me apego, ¿no?, a la cultura del hip hop como una cultura urbana, de la marginalidad. Me identifico mucho con la calle, con los procesos de callejización y de marginalización, y también desde lo urbano me identifico con el hip hop. Quindi per me l'avvicinamento, cioè, individuo il rap con, diciamo, principalmente dal punto di vista che è urbano e quindi relazionato a quello che ha a che fare con la marginalità e con la discriminazione, quindi in questo senso io mi identifico con la strada e con i processi, appunto con la vita della strada, in questo senso, e per questo io uso l'hip hop. Y entonces también el hip hop tiene una facilidad, ¿no?, de utilizar la escena un poco, de manera un poco fácil, ¿no? No necesito músicos, puedo cantar con una pista de manera sencilla, y eso a mí me sirve mucho, ¿no?, para emitir el mensaje de manera más fácil. Inoltre, diciamo, per fare hip hop non c'è bisogno di molte cose, posso anche cantare solo, diciamo, con una base, quindi in questo senso questo mi aiuta anche mi dà ancora più possibilità di trasmettere quello che penso. Grande, allora sentiamocelo questo hip hop, parte a blando. Intelectuales, pajazos mentales, conocimientos parciales de nuestras diversidades. Déjate ya de prejuicios, actívate sensitivo. Dentro, muy dentro, la esencia con sentido. Control de la conducta a través de la moral. Discursos religiosos que controlan la verdad. Son incatalogables nuestros asuntos vitales. Sistema mega diverso, somos interculturales. Soy la negra, el indio, la puta, el enano, la fea, la ruda, el ciego, el mendigo, la bruja. Ya no somos tan pocos, bien abiertos los ojos, dando reflexiones, buscando soluciones, hablando la plena, vamos quitando penas, buscando la manera de boicotear al sistema. Absurdas tradiciones que la diferencia condena. Explota naturaleza, todo a través de la fuerza. Ponte pilas, que nos quedan muy pocos. Pocos, pocos, pocos, pocos, pocos referentes quedan. Hay alternativas en sus huellas, biografías rotas, inconclusas. Inspiraciones de nuestras luchas son incatalogables. Nuestros asuntos vitales, sistema mega diverso, somos interculturales. Soy la negra, el indio, la puta, el enano, la fea, la ruda, el ciego, el mendigo, la bruja. But he don't see you.

La broma de los chicos ejerce su poder. Tú lo reviertes también para joder. Él o tú, pero alguien tiene que perder. Dominador, oprimido, o esa es la ley. En el hogar se me permite de todo. Teniendo el gaznate y puedo ser un ogro. No, mijito, usted no cocine. Eso es para las señoritas. Ya le traigo yo sus chelitas. ¿Cómo no convertirme en el clásico imbécil? Si cada vez tengo que ser más fuerte, aplicar mis prejuicios y caerle al más débil. Voy, aquí voy, me comprometo, lo masacro, puñete al ojo que chuchas, igual yo gano. Tienes que jugar al fútbol, ya te lo he dicho. ¿Quién te pegó, chucha? ¿Quién te pegó? ¿Y por qué no le pegaste, pues, maricón? Dinámicas sociales que se asumen como normales. La violencia instalada en nuestros hogares. Nuestros sentimientos son las posibilidades para construir otras hermandades, otras realidades. Ahora soy el más guapo del barrio. Me levanto a la mejor nena del vecindario. Los panas del barrio me admiran porque le saqué la puta al gordo de la esquina. Y cuando llego a casa, directo al sofá. Si no tengo mis cervezas, ruedan las cabezas. Puedo ser un histérico, un demente. Levantarme a cualquier lady. Ser yo el que te babosé. Exacerbación de la violencia. Aparte de la cultura, esta locura. Ejercerlo es tu condena. Para ella es la tortura. Inmerso en la mierda, no sabes cómo salir de la violencia patriarcal que impone el orden oficial. La manera de sobrevivir es ser superficial, artificial. Mi pelada me dejó, se dio cuenta de lo que no soy. Sabe bien lo que quiere. A mí no. Los panas del barrio se dieron cuenta que soy un verga. Falsa mi apariencia. Ahora estoy solo. Esto lo he conseguido porque me he convertido en el payaso de este circo. Si me lastimo no puedo llorar. La impotencia me da rabia, no puedo parar. Se activa el mecanismo, quiero violentar. No me detengo, te quiero matar. Dinámicas sociales que se asumen como normales. La violencia instalada en nuestros hogares. En nuestras manos las posibilidades de otras realidades. Todos en el fondo queremos. Riprendiamo con l'intervista a Kai e vi ricordiamo che dopo l'intervista ci farà anche un paio di pezzi in live. Allora, ha rilasciato un'intervista alla TV ecuadoregna riguardo il matrimonio lesbico omosessuale in Ecuador. Ci vuoi raccontare come il tuo paese considera gli omosessuali, quali diritti avete riconosciuti? Bueno, hasta 1997 la omosessualità estaba penalizzata nel Ecuador. Che fino a 1997 l'omosessualità era penalizzata in Ecuador. Y aunque los movimientos sociales lograron la despenalización, sacaron la homosexualidad como delito en el Código Penal, el argumento del Tribunal Constitucional era que si bien no es un crimen, es un asunto del cual debe ocuparse la medicina. Nonostante il fatto che i collettivi, i movimenti sociali siano riusciti nel 97 a despenalizzare l'omosessualità, la sentenza del Tribunale Costituzionale Ecuadoriano ha dichiarato appunto che l'omosessualità non era un crimine, ma comunque era una deviazione mentale che aveva bisogno di essere curata appunto con cure mediche. El tema del matrimonio homosexual ahora con Correa es bastante complicado, pero en el 98 y en el 2008 se ratificó en las leyes ecuatorianas la unión civil entre dos personas del mismo sexo. In questo momento il discorso del matrimonio omosessuale è complicato, a maggior ragione con il governo Correa, anche se comunque nel 98 e nel 2008 si è riuscita a far passare la legge sull'unione di fatto. Quindi oggi è riconosciuta l'unione di fatto fra persone dello stesso sesso. El trabajo que yo hice sobre el matrimonio, este matrimonio entre una mujer trans y yo, era una estrategia política para generar una paradoja jurídica. Quindi il lavoro che io ho fatto era riguardava quindi il matrimonio fra una donna trans e io, e quindi diciamo la mia intenzione è quella di creare un paradosso giuridico. La paradoja está en que el sexo legal de mi compañero trans es masculino y mi sexo legal es femenino, por lo tanto el matrimonio es viable. Il paradosso era proprio questo, che il mio sesso legale è appunto femminile, quello del mio compagno diciamo era maschile, quindi diciamo dal punto di vista legale il matrimonio era possibile anche se i nostri diciamo generi erano invertiti. Y la paradoja era la respuesta del Estado frente a la estética, porque íbamos a hacer un trabajo estético de dos mujeres casándose, y también es posible tener cambiarse de nombre. Entonces mi compañera tenía un nombre femenino, entonces el acta de matrimonio iba a escribir los dos nombres, ¿se entiende? Che il paradosso riguardava principalmente un fattore estetico, perché comunque tutte e due saremmo andate vestite da donne, anche se il mio compagno appunto era un uomo, però era trans, e l'altro riguardava appunto il fatto che è legale cambiare i nomi, quindi sull'atto di matrimonio sarebbero stati scritti due nomi femminili. Alla fine io non terminé ese processo, lo terminaron dos compañeros, una trans masculina y un compañero gay. Yo no me casé. Io alla fine non sono arrivata fino alla fine, non mi sono sposata, ma è stato continuato da altri due compagni, di cui un trans femminino, transessuale maschio, transessuale femmina, donna. El objetivo de esta acción política era eliminar el sexo de las cartas de identidad, el género y el sexo de la identidad de género, porque era la paradoja jurídica tenía ese objetivo. Quindi alla fine diciamo l'obiettivo era quello di arrivare appunto a eliminare il sesso e il genere dai documenti di identificazione. E noi ti abbiamo visto cantare a Comunia, dove hai parlato di cliniche riabilitative sessuali dove anche lesbiche vengono rinchiuse. Ci vuoi raccontare come funziona questa cosa vogliono fare di questa deviazione? Como la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador tuvo el argumento de que es un asunto médico, la homosexualidad es un asunto médico, ahí existen una serie de clínicas de carácter privado que hacen rehabilitación de adicciones, en donde se considera una adicción amar a una persona del mismo sexo. Proprio perché il motivo per cui è stato despenalizzato l'omosessualità era il fatto appunto che era un problema medico, esistono queste cliniche che si occupano appunto di dipendenza, dove l'omosessualità è proprio trattata come una dipendenza, quindi nell'essere attratto da una persona dello stesso sesso. Esta problemática ha sido denunciada hace más de 10 años por varios colectivos, incluso en las instancias de protección de derechos humanos regional e internacional, que han, digamos, Amnistía Internacional, Derechos Humanos Internacional, han instado, ¿cómo se dice? Han pedido al gobierno ecuatoriano que deje de que en el territorio ecuatoriano no se haga más tortura y malos tratos a la población LGBT, pero esto no ha resultado. Che ci sono state appunto una serie di denunce da parte di collettivi, anche di organizzazioni internazionali, che hanno fatto anche delle osservazioni al governo ecuatoriano per cercare appunto di far chiudere queste cliniche in quanto appunto diciamo accusate di tortura, di violazione dei diritti umani. También las leyes que regulan las clínicas las clínicas de rehabilitación no permiten el cierre de las clínicas por violación de derechos humanos. Es un trámite burocrático nada más cerrar las clínicas, entonces no pueden haber acusados por violación de derechos humanos. Che le leggi che regolano appunto queste cliniche di riabilitazione, diciamo, non prevedono tra le motivazioni e tra le clausole di chiusura della clinica stessa la possibilità di violazione dei diritti umani, quindi per un cavillo burocratico in pratica non è possibile chiudere le cliniche per maltrattamenti e per violazione dei diritti umani. Este ambiente de omisión del Estado para esta realidad, para esta problemática, no ha solucionado el problema. Entonces nosotros hemos hecho varias acciones. Yo he colaborado desde el 2009 hasta ahora para poder denunciar públicamente y exigir al Estado hacerse cargo de este problema. E il fatto, diciamo, questa reticenza e l'omissione dello Stato nel risolvere, nel, insomma, cercare di trovare una soluzione a questo problema, ha fatto sì che i collettivi si siano mobilitati, diciamo, in prima persona tramite una serie di azioni contro questa, insomma, queste cliniche e i maltrattamenti che, insomma, vi trovano luogo. E in particolare lei dal 2009 collabora con vari collettivi in questo senso, diciamo. En el 2011 hicimos un juicio popular al Estado, que fueron varios colectivos que nos organizamos para demandar al Estado en sus diferentes instituciones para decir que no se está haciendo cargo, y a partir de ese momento hemos tenido una negociación con el Estado hasta ahora. Diciamo, nel 2011 questi collettivi hanno organizzato una specie di processo popolare allo Stato in cui lo si accusava, insomma, di non farsi carico di questa problematica, di non farsi carico di una serie di violazioni di diritti umani che, insomma, sono all'ordine del giorno, e da quel momento in poi è iniziata una specie di trattativa con le autorità statali. C'è una canzone che te ci farai anche in live, 0983010317, che è il numero verde di una linea gratuita riguardo l'aborto per la donna. Perché l'hai realizzata? E è un progetto statale o auto-organizzato? Es un proyecto autónomo de un colectivo feminista que se llama Salud Mujeres. Ellas utilizan el protocolo de la Organización Mundial de la Salud para abortar con las pastillas, la píldora misoprostol o Citotec. Que no, es un proyecto de un colectivo que se llama Salud Mujeres, es una línea de información sobre el aborto seguro a través del utilizo de una píldora del misoprostol, que segue appunto el protocolo de la Organización Mundial de la Salud. Yo he colaborado bastantes años ya con este colectivo. La canción habla de cómo tenemos un pensamiento, un imaginario alrededor del aborto, ante lo que yo reflexiono un poco, lo que se reflexiona en el colectivo, y digamos difundo el número, la línea de aborto seguro. Quindi è nella canzone in particolare io parlo, diciamo, su quelle che sono, diciamo, le idee attorno relative all'aborto, e riporto una serie di riflessioni che sono state fatte appunto a livello fra i vari collettivi, e appunto diffondo appunto il numero della linea d'aborto, proprio per, appunto, con l'obiettivo di far sì che, diciamo, più donne possano avere la possibilità di informarsi con informazione certa e sicura sull'aborto. Ma l'aborto è legale in Ecuador? No, l'aborto è illegale, solamente si permette abortare in caso di violazione. Y solo si la mujer que ha sido violada es retrasada mental o idiota. No, l'aborto è illegale in Ecuador, è solo, diciamo, è solo consentito nei casi di violazione, e solo nei casi in cui si può dimostrare che la donna aveva, diciamo, dei problemi appunto di ritardo mentale. E quindi la distribuzione di questo farmaco è in realtà anche illegale? No, la distribuzione è complicata, no? Hay los colectivos pro vida, che sono los colectivos in contra dell'aborto, che sono fondamentalisti religiosi e cattolici, Opus Dei, sono quienes han hecho una labor muy fuerte para a generar un prejuicio súper fuerte de las farmacéuticas alrededor de esta medicina. Entonces, hay muchas farmacias que no la venden, pero también otras farmacias que aprovechan la especulación y cobran mucho más caro la píldora. Beh, in realtà comunque viene venduto come, cioè una medicina per lo stomaco, quindi non viene venduta come pillola abortiva. Però c'è stato tutto un lavoro da parte di, appunto, di collettivi, delle organizzazioni pro vita, delle organizzazioni cattoliche, che facendo pressione alle farmacie hanno fatto in modo o che alcune farmacie, appunto, non vendessero più questo farmaco, o che aumentassero il prezzo di 3-4 volte. Ante esta realidad, Salud Mujeres y otros colectivos están generando alianzas con colectivos extranjeros, especialmente con colectivos de Holanda y creo que también de México, para poder distribuir directamente la medicina a través de los colectivos feministas, pero esto es todavía un trabajo que se está haciendo. Che proprio per queste ragioni il Salud Mujeres sta creando le relazioni con altri collettivi, in particolare degli olandesi e messicani, proprio per cercare di arrivare a una distribuzione indipendente, diciamo, di questo farmaco. Ok, siamo felicissimi di trasmettere la traccia fra poco. E vogliamo parlare un po' del rapporto tra la società colonialista y la comunidad indio. Okay. A mí me gusta mucho hablar sobre el feminismo de color y el feminismo comunitario, como hablan las mujeres bolivianas feministas indígenas, y desde ahí, digamos, estamos intentando hacer un trabajo de feminismo intercultural. A me piace molto utilizzare i termini, appunto, femminismo di colore, femminismo, appunto, di comunità, come appunto ne parlano appunto le compagne femministe boliviane. E in questo senso, appunto, si sta cercando di portare avanti un discorso che sia, appunto, relativo a un femminismo interculturale. Los colectivos de mujeres organizadas, que no necesariamente se consideran feministas, pero que son indígenas y que tienen una realidad patriarcal de lo indígena también, tienen un trabajo muy asociado a la protección del medio ambiente y también una recuperación del sentido de la potencia de la mujer como comunidad, ¿no? Porque somos la mitad de todo. In questo senso, quindi, i collettivi, quindi dei gruppi di donne che non necessariamente si definiscono come femministe e che sono però inserite, diciamo, in un sistema patriarcale che comunque fa parte diciamo, della realtà indigena, associano, diciamo, questa lotta anche a un elemento, diciamo, all'elemento dell'ambiente, della natura, proprio per rifacendosi anche alla recuperazione del potere della donna. Al secondo, appunto, è la complementarità indigena, che prevede, appunto, che tutto è donna e uomo allo stesso tempo. Credi che nella questione di genere ci debba essere una separazione tra gli uomini e le donne? Sì. Bueno, io penso che la rigidez del género y de la heteronormatividad ha generado esta separación. No la generan las mujeres, ¿no? La separación ya existe, ¿no? Hay cosas que hacen los hombres y cosas que hacen las mujeres. Entonces, para mí, el trabajo del feminismo, del transfeminismo alrededor del género, es la posibilidad de eliminar las jerarquías. Io penso, quindi, che la rigidità la rigidità del genere è stata creata, diciamo, qualcosa che non è naturale, ma comunque fa parte del sistema patriarcale. Quindi, in questo senso, diciamo, le donne non hanno, diciamo, la necessità di creare, appunto, la separazione. Per eliminare le gerarchie, che già comunque esistono di fatto separazioni tra uomo e donna. Io proseguirei con altre 350 domande, andando anche un po' fuori tema. Però, se vuoi cominciare a cantare, ti facciamo cantare. dale, chiaro. Buono. Allora.

Ma que tapona los oídos, sigues la corriente, te metes en líos. Del amor, de dos obreros, de ahora, dos obreros, de, ahora, de eso. Abriendo el alma, me acerqué a tus pasos, de manera honesta, sin querer borrarlos, porque tu existencia es la posibilidad de desarmar el género que nos quita libertad, porque no nos bastó el hombre o mujer, rígidas estatuas negando su placer, porque el mundo aprobado, mundo legitimado, te impone una máscara de ciudadano. Somos indomables, libres, incatalogables, nuestras existencias superando absurdos límites. Somos indomables, libres, incatalogables. Sí. Más que un ser andrógino o una mujer trans, categorías que no logran abarcar la exuberante y mágica movilidad de este amor libre y lleno de bondad. Somos indomables, libres, incatalogables, nuestras existencias superando absurdos límites. Somos indomables, libres, incatalogables, desde la fisura que nuestros cuerpos generan, degeneran. Degenérate, amor trans, desde la calle. Desde la callejización del macho en tacones, verdaderos subversivos llamados maricones, afectos de calle, de ambiente agreste, duras bofetadas de pasión y muerte, fascinación y miedo, horas a hidrosona, expresiones de cariño llenas de bravura, equipamiento de armamento crudo, emociones, intuiciones del tramullo. Somos indomables, libres, incatalogables, nuestras existencias superando absurdos límites. Somos indomables, libres, incatalogables. Eso, eso. La adversidad forjándote invencible, tu feminidad para mí es sublime. Me armas, me desarmas para reconstruirme. Ahora ya lo sé. Somos invencibles, somos indomables, libres, incatalogables, nuestras existencias superando absurdos límites. Somos indomables, libres, incatalogables. Somos indomables, libres, incatalogables, nuestras existencias superando absurdos límites. Somos indomables, libres, incatalogables, feminiscencia incatalogable. Mi masculinidad, mi feminidad, en un solo cuerpo inexplicable, esta es mi realidad, forjando lecturas sociales. Somos indomables, libres, incatalogables, nuestras existencias superando absurdos límites. Somos indomables, libres, incatalogables, sí, sí. Somos indomables, libres, incatalogables, dos cuerpos salvajes prometiendo eternidades, hombre y mujer legalmente matrimoniales, transfeminismo contra instituciones patriarcales. Este es el encuentro que fisura la estructura, un vínculo afectivo que cuestiona la cultura. Somos más diversos que lo que dice el cura, júntate conmigo y empecemos la ruptura. Un saludo a toda la gente, feminicencia, resistencia, hágalo fuerte, que suene hasta el fin del mundo. Eccoci. Io un po', visto che è disponibilissima Calle Carrera, io gli farei qualche altra domanda. E visto che Calle è molto disponibile, andiamo avanti con le domande, anche se magari usciamo fuori tema. Allora, mi chiedevo, conosci il lavoro della Brigata Calayera? Sono lavoratrici sessuali in Messico che aderiscono alle ZLN. E credi nella possibilità di una prostituzione volontaria, cosciente e auto-organizzata? Io credo che il lavoro sessuale che realizzano le tanto las mujeres como las personas trans en la calle, es un trabajo legítimo, ¿no? Ante la gran demanda y la gran fijación que existe alrededor de la sexualidad. Allora, partiamo dal presupposto che il lavoro sessuale, che viene esercitato sia dalle donne che comunque dalle persone trans per strada, diciamo, è un lavoro legittimo, no? Nonostante tutto il grande polverone che viene creato intorno a questa questione. Y como dicen mis compañeras trabajadoras sexuales del Ecuador, si hay una fijación de los hombres tan fuerte por meter el pene, pues ¿por qué no cobrar? E come dicono giustamente le mie compagne, insomma, lavoratrici sessuali in Ecuador, se c'è così tanta richiesta da parte degli uomini, no, di mettere il loro pene in giro, perché non guadagnarci da questa cosa? Entonces yo mando un saludo, ¿no?, a todas las trabajadoras sexuales y pienso que en una sociedad que genera tanta estigmatización alrededor de estas personas, lo único que nosotros podemos hacer es solidarizarnos y tratar de encontrar puntos de la lucha social para ayudarnos entre todos. E quindi, diciamo, lei manda un saluto, ma lo mandiamo, penso, cioè, tranquillamente pure noi a tutte le lavoratrici sessuali. E lei, insomma, il concetto che esprime è che di fronte, insomma, alla stigmatizzazione che la società riserva a questo tipo di lavoro, l'unica cosa che possiamo fare è solidarizzare tra di noi e trovare i punti in comuni per cui, insomma, in comuni per cui lottare insieme, no? A proposito del lottare insieme, esiste già una lotta per l'acqua bene comune in Ecuador o per fermare per esempio il lavoro delle miniere nei casi in cui cementificano e distruggono beni ambientali? State riuscendo a unire le lotte sotto un fronte comune? Sì, bueno, ora il progetto post-desarrollista, extractivista del governo ha generado toda un conflicto alrededor de los derechos colectivos en donde se toma en cuenta el agua, la tierra y los recursos naturales. Diciamo, il progetto post sviluppista, diciamo, mi invento una parola, estrattivista del governo ha creato, diciamo, questa questione dei beni comuni, e su questo, insomma, iniziamo a creare una mobilitazione. Las leyes ecuatorianas permiten la consulta previa, que es un proceso democrático frente a los grandes proyectos del Estado. El Estado tiene que preguntarle al pueblo si quiere que se realicen estos proyectos, megaproyectos. Diciamo, le leggi dell'Ecuador prevedono uno strumento, è quello della consulta preventiva, l'ho tradotto così, per cui, diciamo, il governo deve chiedere alla popolazione, tramite, penso, un processo di consultazione, se sono d'accordo con la creazione di queste grandi opere. Esta consulta principalmente se tiene que hacer a los colectivos indígenas y rurales, porque ellos son los que han trabajado por los derechos colectivos, que es una figura legal específica. Pero esta figura legal ahora mismo al gobierno ecuatoriano le estorba, no le gusta. Questo strumento della consulta si rivolge primariamente, diciamo, ai collettivi, insomma, indigeni, perché sono coloro che hanno lottato veramente per i beni comuni, che sono una figura che giuridicamente esiste nell'ordinamento dell'Ecuador. Però, diciamo, in realtà questo strumento è molto mal visto dal governo, che, insomma, non lo usa molto volentieri. Entonces, las herramientas ahora del Estado son decir que esto es un proyecto económico primordial para el Estado, por lo tanto no hace la consulta previa. Entonces, ahí ahora actualmente hay mucha movilización para la demanda del agua, la tierra y los proyectos antimineros. Quindi, diciamo, la strategia del governo di adesso è quella di dire che i progetti delle grandi opere sono fondamentali dal punto di vista economico per il paese e quindi non possono rientrare, appunto, nel processo di consulta preventiva, e quindi, diciamo, per questo motivo si sta creando una forte mobilitazione popolare rispetto ai progetti di grandi opere di speculazione. E hay una mirada desde afuera, no, de que el Estado ecuatoriano está haciendo alternativas al desarrollo con el proyecto Yasuní TT de explotación petrolera, que dice que vende, digamos, la idea hacia afuera de no explotar el Yasuní TT, que es un parque nacional, sino más bien proteger el parque nacional, pero esto es una mentira. Adentro es toda una realidad difícil y a la afuera es como somos ecologistas. Diciamo che quello che sta succedendo adesso è che dall'esterno la strategia del governo dell'Ecuador sembra una strategia molto avanzata, nel senso che comunque penso cercare di coniugare sia le attività economiche ma anche la protezione, insomma, di questo parco nazionale. Quindi, diciamo, il governo dell'Ecuador si sta dando questa immagine, insomma, di sensibilità alle tematiche ecologiche, alla protezione dell'ambiente, ma in realtà dall'interno è tutta un'altra cosa e per questo c'è la mobilitazione. Ma infatti abbiamo parlato di auto-organizzazione, di orizzontalità, però anche di un dialogo col governo che cercate. Secondo te ha ancora senso chiedere qualcosa a uno Stato che dice cose diverse da quelle che realizza? In quanto il Stato genera orden social y controla a la sociedad, evidentemente los movimientos sociales, los movimientos feministas tenemos que exigirle al Estado, pero también tenemos que generar nuestras propias condiciones de vida paralela al Estado. Allora, diciamo che visto che lo Stato genera l'ordine sociale e controlla la società, come collettivi femministi e comunque come collettivi in generale abbiamo il dovere di richiedere o comunque di esigere dal governo, insomma, delle rivendicazioni, però allo stesso tempo dobbiamo anche collaborare, insomma, per creare il nostro ordine sociale, no? Per imporre il nostro. Io sto convinta che la paranoia dello Stato, la rappresentazione del potere dello Stato, hace un mal uso del potere popolare. Ese potere popolare è una máscara que solo genera bienes y servicios y riqueza para los más ricos y impuestos y control social para el proletariado. Diciamo che il potere dello Stato di fatto strumentalizza il potere popolare e di fatto per creare benefici per i soliti noti, insomma, per i privilegiati, per i più ricchi e sfruttamento per il proletariato, per i più poveri. Ragazzi, le domande abbiamo finite. Vuoi cantare di nuovo? Vale. E allora ce ne sentiamo un'altra. No, 9, credo. Intanto vi ringraziamo per averci ascoltato e speriamo che il nostro mondo che il nostro mondo parallelo abbia una che prevarichi su questo stato, che adesso siamo sotto repressione totale. E dopo la prossima traccia di Kaya in live vi rimandiamo agli appuntamenti e a un po' di info da qua, dai Castelli, sul mondo delle donne. Vai. Perfetto. Para que no se nos olvide que lo que nos han metido en la cabeza es una mentira completa. La civilización más avanzada de la historia humana, basada en tradiciones caducadas, da la medicina, la medida universal para mis decisiones. Diagnosticar la civilización más avanzada de la historia humana, actos migratorios humillantes avala que nuestra gente fuera explotada y transnacionales en la tierra no dejan nada. La civilización más avanzada de la historia humana, basada en tradiciones caducadas, gente muriendo en las fronteras como ratas, sangre televisada para que mi público se distraiga. ¿Te parece indigno y repulsivo? Inmerso en esa mierda vivimos. ¿Te parece absurdo y agresivo?

a Via del Pigneto, presentazione dalle 19.30, presentazione del corpo docile di Rosella Postorino presenta il libro, il suo libro Il Corpo Docile, edito in Einaudi 2013. Ci sarà un reading musicale a cura di Tamara Bartolini e Michele Baronio, Libreria delle Donne di Roma, Tuba, Via del Pigneto 19, dalle ore 19, giovedì 11 luglio. Volevo aggiungere che il 13 ci sarà pure la partecipazione di Calle Callejera alla serata a Comunia, quindi canterà pure lei con altre della serata. E vi ricordiamo i contatti, che sono Femministenzia Castelli Romani su Facebook. E ci trovate Femministenzia on air su radiodefault.it. Per scriverci e comunicare domande e impressioni potete usare Skype, ci trovate come radio.default. Ricordiamo che la trasmissione del collettivo Femministenzia ha luogo il secondo e il quarto martedì del mese dalle 21.30 alle 23.30 e che il collettivo si riunisce il martedì alle 20 a Via della Costarella Genzano, alla sede della Biblioteca Popolare. E quindi adesso salutiamo tutti e tutti quelli che ci hanno ascoltato, vi lasciamo con la nostra sigla preferita cantata da Marta e ci risentiamo non il prossimo martedì, tra due settimane. Arriva le donnette che sono sempre perfette, si attaccano ad un uomo come fossero cagnette, non hanno un'intenzione, non hanno un interesse, sono spesse volentieri bulimiche e represse. Ma che liberazione, ma che rivoluzione, ballerine di fila che aspetta l'audizione, il sesso imprigionato dal libero mercato, ogni corpo un'attacca e via a misurare. È primavera. Ma insomma ragazzette, dammi se un po' da fa, c'avemo culo e tette, e testa per pensare. Però volevo, aspetta, vedi la pezza, ecco qua. Testa per pensare, scusate, che pure lì difetti sono da valorizzare, altro che quelle della pubblicità. Ci piace far l'amore, e puro de magnà, altro che chiesa, marito e santità. Volemo una vita de curiosità, e questa è la strada. Feminicencia, aquí está la resistencia. Ya tú sabes, toda la dona que se junte, que se arme toda la trova. Así no hago broma, ya te lo digo, sea como sea, aquí está la verdadera joda. Se levanta en las calles de Roma, la gente se levanta, aquí nadie se conforma. Esta es la forma de hacerle al sistema. La guerra es la guerra, aquí estamos puras guerreras, mujeres bien paradas. Las donas todas tienen toda esa lucha de la potencia que ellas quieren, esto es lo que hago, así lo digo yo, calle callejera en Roma, yo.